in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore perché anche oggi e del resto anche domani tantissimo spazio agli effetti del referendum in Gran Bretagna, che sapete per poco meno di 3 punti percentuale le persone favorevoli all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cioè la Brexit, hanno prevalso su quelli che invece erano contrari. E oltre al fatto che venerdì ci sono stati degli scossoni sulle borse di tutto il mondo con ribassi record, adesso naturalmente dobbiamo vedere cosa succederà domani e quando riaprono le borse. E anche in attesa di questo test finanziario, possiamo dire, il Sole 24 Ore riporta il titolo di ieri, che è quel titolo a caratteri cubitali, Europa svegliati, che ricordava quella stessa soluzione scelta quando lo spread era arrivato a livelli ingestibili, a quel punto il titolo era stato fate presto. Comunque l'idea è appunto la stessa, cioè una grande, con un editoriale allora come ieri del direttore Roberto Napoletano, un invito appunto a prendere subito atto di quello che è successo e agire, un invito naturalmente alle autorità europee. E quindi il titolo, tra l'altro l'editoriale di ieri ha spinto il premier Matteo Renzi a scrivere una lettera al Sole 24 Ore che viene pubblicata in prima pagina. Ne trovate un pezzo in prima pagina e la continuazione poi a pagina 7. Il titolo scelto è Più crescita, innovazione, sicurezza e Migration Compact, così può svegliarsi l'Europa. Sapete che ci sarà un Consiglio europeo imminente. Ieri Renzi si è visto con il presidente francese Hollande, si cerca appunto di mettere a punto una strategia. Poi un altro titolo importante in prima pagina è un'intervista del direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore di Radio 24, all'amministratore delegato di Intesa San Paolo, la più grande banca italiana, che si intitola Brexit per l'Italia può essere una grande occasione di crescita. E il parere, uno dei virgolettati scelti per riassumere l'intervista, è: sono questi i momenti in cui si deve reagire per diventare leader europei. E la trovate poi, inizia in copertina e continua a pagina 3, vi leggo altri virgolettati. Siamo riusciti a non contrastare, a far valere per le famiglie il bail-in che era stato concepito per gli investitori istituzionali, quindi questo problema del salvare le persone, salvare le banche o le persone che sono sostanzialmente in bancarotta. E questa viene definita la prima regola stupida. Seconda regola stupida: il caso Ilva è paradossale, l'infrastruttura più importante per il PIL del paese è sottoposta a un'asta dove i fattori tempo e prezzo sono vincolati. Un'altra storia senza fine, quella dell'acciaieria di Taranto. Regole stupide 3. Dobbiamo combattere il disagio sociale e invece facciamo in modo di crearne di nuovo. Per quanto riguarda il rapporto con il governo, oggi il Presidente del Consiglio può determinare l'agenda del Paese e contribuire a cambiare quella europea. Se non lo fa, perde un'occasione unica. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, tanti altri approfondimenti. Vi segnalo in particolare un'intervista di Dino Pesole a Giuliano Amato, Berlino, Parigi e Roma insieme per ricostruire. Quindi appunto questo asse che tra Germania, Italia e Francia, che potrebbe costituirsi o ricostituirsi per far fronte a questa emergenza. Il Corriere della Sera, l'Europa già divisa su Londra. Il riferimento è al fatto che le prime dichiarazioni di Angela Merkel sono state molto concilianti a quello che il Corriere della Sera definisce, quello che Angela Merkel auspica, è quello che il Corriere della Sera definisce un divorzio dolce. Invece per Parigi è necessario fare presto. E poi c'è questa vicenda un po' paradossale, se volete, di una raccolta online, che quindi è ben diversa da quella che serve per indire un referendum come quello che è stato indetto il 23 giugno, giovedì 23 giugno. Comunque sono state raccolte 2 milioni di firme online nel Regno Unito per rivotare. Dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un accenno all'alta importante consultazione che si tiene oggi, che è in Spagna, che la Spagna, sapete, dopo 6 mesi va a elezioni anticipate, dopo 6 mesi dalle ultime elezioni politiche, perché in questi 6 mesi non si era riuscito a formare un governo. Il titolo: un'altra sfida per Bruxelles, il voto spagnolo. La Repubblica, anche qui il titolo è sulla Brexit, le tre mosse dei leader dell'Unione Europea, 6 mesi per salvarci. E poi però c'è anche un grande richiamo a uno speciale che poi vedremo quando sfogliamo i supplementi della domenica, al tema delle periferie. Il titolo è Nelle periferie dove nasce il grande scontento. È chiaro che lo speciale, questo approfondimento, probabilmente nasceva da ben prima l'idea è nata ben prima del referendum sulla Brexit, però questo ha dato anche, con i dati che sappiamo a macchia di leopardo su come hanno votato i britannici a seconda delle zone in cui vivono, questo tema delle periferie, del disagio soprattutto in generale nelle periferie, nella maggior parte dei paesi occidentali, torna prepotentemente e viene approfondito in moltissimi modi, sia per quanto riguarda le periferie italiane sia per quelle straniere. Poi appunto lo vedremo quando diamo un'occhiata più approfondita ai supplementi della domenica. La fotonotizia di Repubblica è dedicata però al voto spagnolo. In Spagna una degli inviati di Repubblica è Concita De Gregorio, che firma anche il reportage Scegliere con il cuore in tasca. Il titolo dell'approfondimento, della presentazione di questo voto è Bandiere europee dopo la ferita inglese, la Spagna spaccata ritorna al voto. E La Stampa a sua volta titola sulla questione della Gran Bretagna: Bruxelles disegna la nuova UE, è lite con Londra sul divorzio. Quindi si preannuncia appunto un negoziato molto difficile, quello, sapete, che bisogna ricorrere, l'avete sentito dire sicuramente molte volte, ci deve essere una richiesta formale prevista dall'articolo 50 del Trattato di Costituzione dell'Unione Europea, deve essere una richiesta formale di uscita, ma si calcola che non basteranno 2 anni per mettere a punto tutti i dettagli di questa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Richiamata in copertina anche un'intervista abbastanza sconvolgente, direi, che magari dopo vedremo un po' in profondità, fatta da Paolo Mastrolilli a Donald Trump, che un po' per caso si trovava in questi giorni in Scozia per suoi affari privati, e qualcuno appunto è riuscito a approfittare di questa sua presenza e naturalmente gli ha chiesto anche un parere sull'esito del referendum in Gran Bretagna. E il titolo scelto dalla Stampa si riferisce a una frase di Trump: ora tocca a Italia e Francia, cioè staremo anche noi per uscire. Il Messaggero a tutta pagina: Brexit divide anche l'Europa. E poi una fotonotizia delle manifestazioni, una delle tante manifestazioni che ci sono state ieri a Londra, con appunto questa richiesta di ripetere il referendum. E vi segnalo anche, richiamata in prima pagina, il rapporto del commissario Francesco Paolo Tronca a Roma. Adesso Roma ha un nuovo sindaco, lo sappiamo, ma prima era stata commissariata, e dice: a Roma la corruzione è difficile da frenare, in Campidoglio la macchina amministrativa è obsoleta e inadeguata. E poi vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire. Il titolo principale anche in questo caso è dedicato alla Brexit, voglia di tornare, con il riferimento a questi 2 milioni di firme già raccolte online, ma la fotonotizia è giustamente dedicata al viaggio del Papa in Armenia, con questo storico viaggio in Armenia. E il titolo è La memoria fonte di pace. La foto bellissima è di Papa Francesco che innaffia delle piante, e tra l'altro al mausoleo del genocidio armeno Francesco ha fatto un discorso bellissimo che poi trovate alle pagine 14 e 15 riassunto all'interno appunto di Avvenire. Libero: fate votare anche noi, questo è il titolo, un referendum sulla UE. Libero sta raccogliendo, tagliando, lo trovate all'interno delle pagine, le firme per poter indire un referendum consultivo come quello che è stato indetto in Gran Bretagna. Anche da noi non è previsto nelle nostre regole costituzionali, però appunto Libero ha lanciato questa petizione. Vi segnalo anche, l'editoriale, l'articolo in prima pagina è del direttore Vittorio Feltri: ai lettori chiediamo di firmare il nostro appello per far sì che anche in Italia i cittadini si possano esprimere. E poi Mario Giordano invece firma un articolo che poi trovate richiamato in prima pagina e poi trovate a pagina 5, dove si fa un po' l'excursus di tutti i commenti che nei giorni scorsi quelli che Mario Giordano definisce i democratici dei miei stivali, tra i quali c'è a sorpresa anche Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, e poi ci sono Ezio Mauro, direttore di Repubblica, ex direttore di Repubblica, Mario Calabresi, direttore di Repubblica, Massimo Gramalini, vice direttore della Stampa, e Beppe Sevenini del Corriere, perché secondo Mario Giordano hanno sbagliato a dire che gli elettori hanno fatto una scelta sbagliata o poco informata, perché la democrazia è proprio questo, bisogna rispettare appunto il verdetto delle urne. Trovate appunto questo excursus a pagina 5, se ne può discutere, sicuramente alcuni toni sono stati probabilmente sbagliati e arroganti, però è anche vero che è mancata molto l'informazione su questo referendum e che quindi la tesi che forse molte persone che hanno votato sì all'uscita dal Regno Unito non l'hanno fatto adeguatamente informati, secondo me è altrettanto fondata. Il Giornale, allergici alla democrazia, quindi l'accusa che il Libero rivolge a Sallusti, il direttore del Giornale, in realtà viene un po' smentita da questa presa di posizione di Sallusti. Gli ultra dell'eurodittatura, Napolitano, Prodi e Monti sul referendum in Gran Bretagna, bisogna impedire ai cittadini di votare su questioni importanti, è la prova che considerano tutti sudditi. Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine, vi segnalo dei quotidiani italiani, vi segnalo anche quella del Fatto Quotidiano, che crea un neologismo Renxit, perché il titolo è questo: nella UE c'è voglia di Eurexit, in Italia si rischia la Renxit. Il significato naturalmente è quello di usare soprattutto il referendum costituzionale sulla riforma costituzionale di ottobre per appunto fare quello che poi Renzi aveva suggerito già da molti mesi, cioè di usarlo come un referendum su di lui, sul suo governo. Vi segnalo anche la prima pagina del Manifesto, qui la fotonotizia si intitola La Vuelta Buena, naturalmente il riferimento è alle elezioni che ci sono oggi in Spagna, appunto che sia la volta buona per formare un governo che alla Spagna manca da 6 mesi, e nella foto si vede il leader di Podemos, Pablo Iglesias, che gioca a pallacanestro e appunto cerca di spingere la palla a canestro. Anche il Manifesto usa questo neologismo Renxit, la grande paura di ottobre, il Premier medita la data più utile. E poi c'è un accenno per tenere viva la vicenda di Giulio Regeni, ucciso più di 2 mesi fa al Cairo, assassinato dopo essere stato torturato, e il Manifesto dà conto di questa dichiarazione che è arrivata dal Cairo, che considera una provocazione la tweet action di Amnesty International per avere la verità sul caso Regeni. La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata naturalmente agli europei, alla partita che ci sarà domani, che vede l'Italia impegnata contro la Spagna, e alle pagine 2 e 3 una lunga intervista ad Andrea Pirlo, l'ex difensore della nazionale, che dice: sento Buffon e De Rossi, qui c'è aria d'impresa, e magari porterà fortuna. Ma torniamo al Sole 24 Ore con tutti gli approfondimenti che vi dicevo all'interno sulla Brexit. In particolare a pagina 9 trovate alcune ipotesi su quello che potrebbe succedere domani, l'analisi di Walter Riolfi: le borse temono il contagio politico della Brexit, e poi anche una ricognizione di Vittorio Darold su quello che stanno facendo i banchieri centrali. Una buona notizia tutto sommato, visto che insomma siamo ancora molti parlano di uscita dalla crisi, però la crisi dura dal 2008 e l'Italia ne sta uscendo con più fatica di altri paesi. Quindi dal punto di vista dei consumi, Emanuele Scarci sulla prima pagina di Imprese e Territori racconta come stiano accelerando le vendite di elettronica, con un balzo del 17% per il canale online, anche se la spesa pro capite, per esempio confrontandola con la Germania, è ancora molto lontana. Tra maggio 2015 e aprile 2016 le vendite sono salite del 5,7% a 14,2 miliardi. A trainare, come potete immaginare, sono gli smartphone e anche tutti quei piccoli PC, quei tablet, la categoria dei tablet, quindi quelli che alcuni definiscono i PC mobile. Poi naturalmente l'altra notizia di quest'opera monumentale, che è il nuovo canale di Panama, c'è un approfondimento sempre sul Sole 24 Ore a pagina 20, Commercio apre il nuovo canale di Panama, un ampliamento che è costato 5 miliardi di euro, e in prima fila c'è anche naturalmente l'industria Made in Italy, che ha contribuito con molte sue aziende del settore dell'edilizia. La lettera dell'investitore, che sapete normalmente è sempre richiamata alla domenica sulla cover del Sole 24 Ore, questa settimana no, per evidenti problemi di spazio, però vi cito comunque, trovate la pagina 20, la pagina in cui Vittorio Carlini approfondisce tutti gli aspetti di un titolo quotato. In questa settimana ha scelto il titolo Brunello Cucinelli, l'azienda umbra che ha iniziato con la maglieria in cashmere, ma ora produce tutto quello che è abbigliamento e accessori. Il titolo Cucinelli amplia il perimetro, l'obiettivo è aumentare i ricavi dal commercio elettronico, l'espansione sulla rete avverrà in maniera graduale, focus sui multimarca in Cina con operatori locali. E poi l'approfondimento sull'altra grande questione finanziaria, che è quella italiana, che è quella della conquista di RCS, del gruppo RCS di cui fa parte il Corriere. Sapete che sono due le offerte sul tavolo: una è un'offerta pubblica di scambio di azioni fatta da Cairo Communication, e l'altra invece di una cordata guidata dal finanziere Andrea Bonomi. L'aggiornamento ce lo racconta Marigia Mangano. Cairo valuta un nuovo rilancio. L'imprenditore ha 5 giorni di tempo a partire da domani per rivedere l'offerta. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista di Paolo Conti a Daria Bignardi, che viene titolata "Così cambio i talk show, Rai 3 è una rete del PD, basta con le appartenenze". Ci sono così, divertente leggerla, perché se questo è il cambiamento, per esempio... La risposta sul fatto che Rai 3 non sia la rete di sinistra, Bignardi risponde: Rai 3 sarà la rete della realtà, come tutte le reti Rai, forse di più, sarà profondamente di servizio pubblico, quindi dell'inclusione e della sperimentazione. Però attenzione a cosa vuol dire inclusione per Daria Bignardi: il pubblico di Rai 3 è fedele, colto, esigente e, mi si passi il termine, impegnato, ha sempre avuto molto e molto bisogno di continuare a dargli con un'offerta viva. Quindi questa è la sua idea di inclusione, prendere il pubblico che è già impegnato. Io trovo di un'arroganza questa risposta, ma comunque insomma è la mia opinione. Sul fatto che stia rinnovando la rete, Paolo Conti le chiede: Fabio Fazio guiderà Rischia Tutto il giovedì sera, e terrà la domenica sera, e il sabato? Tutti i cantieri di Rai 3 si stanno rinnovando, anche Fazio, che lancerà il suo Rischia Tutto del giovedì e proporrà una formula ripensata di Che Tempo Che Fa la domenica sera, con un ruolo nuovo per Luciana Littizzetto. Siamo tutti molto curiosi di vedere che ruolo nuovo possa essere. Poi attenzione, sabato in prima serata arriverà Massimo Gramellini con una classifica delle 10 parole della settimana e un ospite in studio, che era quello che già faceva nell'ultima edizione di Che Tempo Che Fa, e queste sono le novità. Dal Corriere della Sera, a proposito di divisioni, abbiamo anche noi una piccola, l'ennesima in realtà in Italia, l'ennesimo esempio un po' di campanilismo, di liti appunto tra territori. C'è una crisi sull'isola di Capri, perché i due comuni dell'isola, Capri e Anacapri, sono in rotta. Prove di secessione a Capri, ci racconta Fulvio Buvi, uno degli oggetti del contendere è la viabilità. Sempre dalle pagine interne del Corriere della Sera, della Repubblica, vi segnalo invece una bellissima intervista di Luca Fraioli a Kip Thorne, che è un astrofisico americano. Sapete che ho un po' la passione della divulgazione scientifica, quando è fatta bene, quando insomma ci spiega davvero questi misteri, che se non si è astrofisici, e la maggior parte di noi non lo sono, è difficile capire. Il titolo scelto per l'intervista è "Non sono un eroe in corsa per il Nobel, ma so che l'universo non avrà più segreti". A 76 anni questo astrofisico, ed è candidato appunto al premio Nobel nella categoria della fisica per la scoperta delle onde gravitazionali, che così tanto ci hanno affascinato quando se ne è parlato nei mesi scorsi, subito dopo la scoperta. Vi dicevo l'intervista sulla Stampa a Donald Trump, fatta da Paolo Mastrolilli, intitolata "L'Europa ha fatto troppi errori, ora via anche Italia e Francia". E sentite questa risposta. "L'altro giorno ha criticato duramente la Germania. Perché? E Trump risponde: stimavo molto Angela Merkel, le ho sempre fatto tanti complimenti, fino a quando ha preso quella decisione sciagurata sull'accoglienza dei rifugiati. Così ha trasformato la Germania in un paese da cui i suoi abitanti vogliono scappare. Ecco, questa è la classica domanda a cui forse, dico perché poi è sempre facile giudicare a posteriori, chi lo intervistava avrebbe potuto rispondergli elencando per esempio tutte le misure che la Germania sta prendendo per, e molte, coinvolgono cittadini tedeschi volontari, per esempio per insegnare il tedesco agli immigrati o comunque per dargli una possibilità una volta che sono entrati nel paese. Secondo Trump invece i tedeschi se ne vogliono andare dalla Germania. Sono generalizzazioni e slogan così banali, così anche umilianti per chi li deve ascoltare, secondo me, che appunto meriterebbero una replica da parte dell'intervistatore, ma forse le risposte parlano da sole e poi chi legge l'intervista giudica da sé. A proposito delle inchieste che la stampa fa sempre, questa settimana è sul gioco d'azzardo. Uno studio del CNR ha di recente spiegato che le macchinette sono costruite per creare dipendenza e qui naturalmente, come sapete, la grande questione è che lo Stato guadagna in forma di imposte sui vari giochi d'azzardo e quindi da una parte il gioco d'azzardo viene definita l'eroina del nuovo millennio che non cattura solo i giovani e dall'altra però per lo Stato è molto conveniente. Vi dicevo dalla pagina e parliamo di lotterie, di slot machine nei bar, tutto quello che è appunto il gioco d'azzardo legale, che però è regolarmente tassato. Alle pagine 14 e 15 vi dicevo l'approfondimento sul viaggio di Papa Francesco in Armenia, in particolare a pagina 14 proprio l'omelia pronunciata dal Papa durante la messa celebrata a Gyumri, dove si è parlato anche di questo grande genocidio dimenticato che è quello degli armeni nel 1915. A proposito di immigrati, un altro approfondimento dell'Avvenire che prende spunto dall'impegno di Medici Senza Frontiere: curare le ferite, curare le ferite è possibile. Un rifugiato su tre infatti arriva in Italia con delle ferite da tortura e Lucia Capuzzi ci racconta sull'Avvenire quello che i medici e i dipendenti in generale di Medici Senza Frontiere fanno a Roma in un centro che assiste le vittime. Ci fermiamo un attimo per il traffico e ci risentiamo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Rieccoci per l'ultima parte, come dicevamo, della rassegna. Vi segnalo ancora un articolo dell'Avvenire, che è il giornale che dà più spazio a queste manifestazioni che ci sono state ieri contro il caporalato, una marcia di 15.000 persone, una manifestazione nazionale a Bari, perché la Puglia è una regione molto colpita da questo fenomeno criminale. E continuano a esserci proclami. Ieri è stata annunciata una task force per i controlli nei campi, però in realtà questo è un fenomeno ancora molto diffuso che coinvolge non soltanto gli immigrati che vengono appunto spesso sottopagati e sfruttati nelle campagne in particolare, ma anche gli italiani. Ma vediamo i supplementi della domenica. Cominciamo naturalmente dal Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola La penna. La citazione è di un premio Nobel, il poeta irlandese Seamus Heaney. E la citazione è questa: tra l'indice e il pollice riposa la mia penna tozza e comoda. Sotto la finestra il suono netto e stridulo della vanga che affonda nella terra ghiaiosa. Mio padre che scava. Io non ho la vanga per seguire uomini così. Tra l'indice e il pollice ho la penna, scaverò con quella. E scrive Ravasi: un anno prima che morisse scrisse al poeta irlandese Seamus Heaney, che vinse il Nobel nel 1995, una lettera per chiedergli un breve testo per una celebrazione vaticana. Mi rispose con semplicità, confessando la fatica che ormai gli costava lo scrivere per ragioni di salute, ma anche per la tensione del comporre poesie. Pensai allora a questi versi che ora ritaglio nella sua lirica scavando e che propongo ai lettori. Heaney scriveva ancora a penna, con un gesto che ben comprendo perché anch'io lo ripeto da sempre e sempre con emozione. Soprattutto per un genio come lui, ogni parola era scelta con la stessa fatica con cui suo padre contadino affondava la vanga nella terra. Sì, perché la vera poesia è uno scavo oltre i sassi della superficialità, alla ricerca di una polla di verità o di una radice di bellezza. E invece l'altra rubrica della domenica, il memorandum del direttore Roberto Napoletano, si apre con una lettera ricevuta da Antonello Velardi, che è appena diventato sindaco di Marcianise, e la replica di Roberto Napoletano, che lo incita a prendere, insomma, perché naturalmente la lettera contiene anche lo spavento per l'incarico di una città difficile come Marcianise, e quindi l'augurio di Roberto Napoletano a non perdere il coraggio di poter cambiare le cose. Il coraggio di Antonello, Marcianise e la normalità che serve al Sud. Ma la copertina vera e propria, l'apertura del domenicale, è un'anticipazione di un testo che verrà letto il 2 luglio, quindi sabato prossimo, alla Milanesiana, la manifestazione che si tiene sempre a cavallo tra giugno e luglio a Milano. Siamo arrivati alla 17ª edizione, che vede sempre interventi di scrittori, ma anche contaminazioni con musicisti e altri tipi di artisti. Questo è l'anticipazione, appunto, di un testo che verrà letto da John Coetzee il 2 luglio, il premio Nobel sudafricano. È un racconto che si intitola Un ultimo sguardo di vanità. Figli e nipoti vanno a festeggiare i 65 anni della nonna, che per la prima volta si è truccata e ha tinto i capelli. Da un premio Nobel, un racconto che viene definito alla Chekhov. Visto che stiamo parlando tanto di sport, non solo di europei, vi segnalo la recensione di Filippo Laporta al libro di Sandro Veronesi Un Dio ti guarda, nobiltà dello sport senza fine, un pantheon di campioni sportivi che ha qualità di scrittura e drammatizzazione. La foto scelta per illustrare questa recensione è una foto di Michel Platini, pensata agli europei del 1984, la semifinale. E Michel Platini era capitano della Francia, e questa era la semifinale contro il Portogallo. Un bellissimo articolo di Umberto Bottazzini, che recensisce un libro di Angelo Guerraggio, che è un professore di matematica e un matematico, che si intitola Con la testa tra le nuvole, il mestiere del matematico, avere i numeri per crescere. Questo è il titolo dell'articolo, e Umberto Bottazzini, riassumendo un po' tutto quello che Guerraggio racconta nel suo libro, ci spiega: quello del matematico è un mestiere che, malgrado l'apparente inutilità, è tra quelli che maggiormente determinano lo sviluppo economico di un paese. Gli altri supplementi, vi segnalo la copertina della lettura del Corriere della Sera, affidata come sempre a un artista, questa settimana è Italo Zannier. E poi dall'interno, non ve lo segnalo quasi mai perché è un po' difficile da spiegare a parole, però la lettura ha sempre una pagina dedicata a un visual data, cioè una visualizzazione di una grande massa di dati. Quello di questa settimana è particolarmente interessante perché è dedicato alle spose bambine. Il titolo: Nessuna festa per i diritti. E qui ci sono i vari paesi rappresentati con alcune, appunto, soluzioni grafiche, tant'è che non è così intuitivo capirlo, tant'è che c'è anche una piccola guida come si legge questa infografica. Comunque i paesi presi in considerazione sono l'Africa, l'Africa subsahariana, l'America Latina, il Giappone, l'Europa e il Nord America. Un'altra bella recensione a un libro di Hubert Reeves, che è un astrofisico e un ecologista, e Yves Lancelot, che è un oceanografo, un libro appena pubblicato da Baldini e Castoldi. Il titolo della recensione di Fabio Genovesi è Sono uno spazzino del mare. E un po' in questo libro i due scienziati raccontano, in questo libro di un bel esempio di divulgazione appassionata, la definisce Fabio Genovesi, i segreti e le minacce degli abissi. I nipoti devono sapere che l'uomo ha una responsabilità verso la natura. E un'altra frase contenuta nel libro, ripresa nella recensione, è: avevano ragione gli indiani, dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto e l'ultimo pesce catturato, ti accorgerai che il denaro non si può mangiare. E vi dicevo del supplemento della domenica di Repubblica, tutto dedicato alle periferie, definite il luogo del nostro scontento. E qui davvero gli interventi sono tantissimi. Ce n'è uno di Roberto Saviano, Fuga dalle bugie, il virgolettato scelto per spiegare questo intervento di Roberto Saviano: la mia generazione era costretta a spostarsi da sud a nord per studiare e lavorare. Oggi l'unico tentativo possibile per migliorare la vita è andarsene, mentre il nostro governo canta vittorie effimere. Quindi un po' prende la palla al balzo per fare l'ennesima, insomma, critica a come si cerca di uscire dalla crisi in Italia. Ma vi segnalo anche, per non restare solo in Italia, la periferia del Regno Unito. Qui l'intervento è un'intervista di Enrico Franceschini allo scrittore inglese Hanif Qureishi, Il mio Buddha ha paura, perché ricorderete forse che il titolo di uno dei best seller di Hanif Qureishi era Il Buddha delle periferie. Dalla Repubblica, le interviste che vi cerco di segnalarvi sempre, della serie Straparlando della domenica, fatte da Antonio Gnoli e sempre illustrate su doppia pagina, illustrate da Riccardo Mannelli. Questa settimana è Emilio Isgrò, che è un pittore ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista, e in questo momento si inaugura in questi giorni una mostra, una grande mostra dedicata a Milano, che si aprirà ufficialmente mercoledì prossimo. Il titolo dell'intervista è Ho cancellato tutto, anche me stesso, per togliere il superfluo dell'anima, perché uno dei tratti per le quali sono famose le opere di Isgrò è che appunto a volte prende dei testi famosi. Nella mostra di Milano ci sono anche quelli, alcune pagine di Alessandro Manzoni, e in qualche modo li cancella. Dal supplemento macro del Messaggero vi segnalo questo bel libro che parla di tutte le scale di Roma. Quindi tutte le scale portano a Roma, ce lo racconta Filippo Laporta. Dalla salita al Pincio al Monte dei Cocci, dal Campidoglio alla rampa del Monte Aureo, la capitale è fatta di gradini che Alessandro Mauro in questo libro descrive, e appunto in questo suggestivo volume. E poi, tra l'altro, queste scalinate si sono spesso prestate anche per location di film come Ladri di biciclette o concerti come Miles Davis ai piedi del quello che viene definito il Colosseo Quadrato. Su Isgrò vi segnalo anche una recensione sul supplemento del manifesto della domenica, che si chiama Alias, e anche in questo caso appunto scancello Manzoni e la parola esplode. Per farvi capire che cosa intendevo, c'è appunto un'immagine di uno dei libri sui quali Isgrò nella sua vita ha lavorato, Le cancellature dei promessi sposi, illustrati da Gonin, con la matericità delle varie stesure si fanno qui evento pittorico. E come vi dicevo, la mostra dedicata a Emilio Isgrò, che si apre mercoledì a Milano. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Paolo Corleoni in regia, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. E come sempre, Brexit o non Brexit, i giornali sono ricchi di approfondimenti. Forse la domenica si ha un pochino più di tempo per leggerli, e quindi il mio augurio, il mio consiglio a tutti è: prendetevi un po' di tempo, perché poi, così come Ravasi dice sulla domenica del Sole 24 Ore, che è importante scrivere ancora con una penna, tanti sono gli studi che dimostrano che così ci si ricorda meglio le cose, è anche importante a volte leggere sulla carta anziché da internet. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.